prendiamo la nostra meditazione, la nostra preghiera personale e allo stesso tempo anche collettiva, nel senso che siamo uniti nel pregare, anche se ciascuno di voi si rivolge al Signore personalmente, e io cerco di suggerire degli argomenti di preghiera. Quindi riprendiamo da quell'episodio dell'apparizione di Gesù a Maria Maddalena che leggevamo nella meditazione precedente, e siamo arrivati a un certo punto dell'incontro di Gesù con Maria, di Maria con Gesù, Maria Maddalena, e riprendiamo, ecco, dai versetti precedenti. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. In un certo senso Gesù è il custode del giardino, nel senso che il custode è il pastore delle pecore, no? È la porta attraverso la quale entriamo tutti quanti, no? Nell'ovile, e lui vuole essere il pastore di tutti, no? O altre pecore che non sono di questo ovile, e vuole tutte radunarle, e allo stesso tempo le chiama per nome, le pecore, le chiama ciascuna per nome, dice la parabola, no? Perché in effetti lui ci conosce personalmente con la nostra unicità. E poi custodisce le nostre anime, custodisce il nostro cammino, protegge. E quindi Maria in un certo senso si sbaglia, ma ha ragione. Gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Allora possiamo pensare che Gesù, nel venire incontro a noi, nel chiamarci per nome, ci aiuta a ritrovare noi stessi. E ci aiuta a capire il significato e il valore della nostra vita. Il significato e il valore della nostra vita presente. A volte potrebbe sembrare a una Maria Maddalena che sta lì, dice: io cosa ci sto qui a fare, no? Sono in una situazione in cui che non conosco, che non domino, che per la quale non posso fare nulla, anche se cerca lì di chiedere al primo che passa, in qualche misura, no? se sa qualcosa, è molto determinata, ma che strumenti ha, no? Pochissimi o nessuno, se non il suo amore grande, la sua forza, il suo desiderio di ritrovare Gesù, anche se pensa a lei che sia un cadavere. Allora Gesù, nel venirci incontro, nel chiamarci per nome, ci aiuta a ritrovare noi stessi. Quando ero a Verona come giovane sacerdote, mi viene in mente che un sacerdote grande, insomma, è anziano, esperto e santo, e mi confidava questa sua considerazione riguardo al rapporto tra l'uomo e la donna, tra il rapporto d'amore, no? Tra l'uomo e la donna, tra il marito e la moglie, tra il fidanzato e la fidanzata, no? Che secondo lui, secondo la sua esperienza, la donna ha una grande capacità di natura proprio di aiutare l'uomo a cogliere la dimensione divina delle cose, no? a conoscere Dio, in sostanza hanno una capacità di portarlo a Dio, no? Così come l'uomo ha il compito, quindi la donna avrebbe il compito di portare a Dio l'uomo, e l'uomo ha il compito di aiutare la donna a ritrovare se stessa, certo attraverso il suo amore, il suo chiamarla per nome, la certezza della sua presenza, del suo appoggio. Questo diceva lui, poi non so se voi concordate, però evidentemente questo non vale con Gesù, cioè con Gesù vale per tutti noi il fatto che lui con la sua presenza, con il suo amore, con la sua chiamata ci aiuta a capire noi stessi, a capire il senso della nostra vita, a capire che normalmente stiamo nel posto giusto. Quando il fondatore dell'opera parlava del compito dell'opera nella chiesa dell'Opus Dei, lo spirito dell'Opus Dei era cercare di dire a molte persone o di ricordare che il Signore ci chiama a conoscerlo, ad amarlo, a servirlo, nel posto che abbiamo nella vita, nel posto che la vita ci ha assegnato, che poi noi anche abbiamo scelto in alcuni casi liberamente, nel senso che poi le circostanze spesso condizionano la scelta del luogo dove vivere, del lavoro, della famiglia da mettere in piedi e così via, no? Però nel posto dove stiamo, quello è il posto dove Dio ci chiama, e secondo lo spirito dell'opera, ma la maggioranza delle persone normalmente non ci chiama a cambiare posto. Altre volte sì, ovviamente, no? Ci sentiamo spinti ad intraprendere un nuovo lavoro, a cambiare città, ad andare addirittura. Ci sono alcune persone che cambiano addirittura nazione per un motivo anche, a volte adesso sappiamo bene, ci sono tante situazioni di grandi sofferenze, no? Per cui dobbiamo pregare tutti i profughi, i perseguitati, anche per la fede, e non solo, ma e oggi ricordavamo appunto anche tutti gli armeni, no? Che sono dovuti, quelli che sono stati, diciamo, uccisi con il genocidio, e quelli che hanno dovuto emigrare. Queste sono situazioni non volute, eppure, ecco perché nella vita ci sono tante situazioni di questo tipo, però dobbiamo avere la certezza che il Signore trasforma ciò che anche non è voluto, ciò che può sembrare casuale, in uno strumento della sua provvidenza. Qualche volta con i miei fratelli, anche con i miei genitori, ci ritroviamo e ogni tanto, ma molto ogni tanto, viene fuori un'altra circostanza provvidenziale che è successa nella storia, per cui mio padre e mia madre si sono conosciuti, no? Per cui mio padre era un ragazzino di una famiglia che abitava a Monselice, e mio nonno faceva il meccanico, aggiustava le auto, guidava le prime auto, no? che giravano, per cui infatti una volta quando ero dalle parti di Verona, insomma, conobbi un'antica così cugina anziana che diceva che era che mio nonno la portava in macchina, lei a Monselice era tutta contenta di essere portata nell'unica macchina del paese, in un'auto, E allora, però a un certo punto, insomma, c'aveva un socio con cui non andava d'accordo, insomma, e hanno fatto una sorta di scommessa, per cui hanno comprato un camion, però insomma, adesso non mi sto raccontando i dettagli, comunque alla fine ha deciso, per questo piccolo fatto esterno, di lasciare, anche perché mia nonna si rendeva conto che quel lavoro era poco produttivo, e quindi sono venuti a Milano a cercare fortuna e a lavorare, e in questo modo, ecco, questo è un primo fatto, no? E la mia nonna materna, lo stesso, no? Erano, il suo, il mio bisnonno faceva il fornaio in un paese della provincia di Milano, ha litigato col fratello, per cui hanno deciso, no? Uno tiene il forno, l'altro prende dei soldi e viene a Milano. Quindi lui è venuto a Milano, il mio bisnonno, e ha messo un forno del pane nel centro di Milano, no? E così, no? Quindi due fattori assolutamente così, imprevedibili. E poi recentemente ne ho saputo un altro, perché mio papà e mamma si sono conosciuti nell'oratorio della parrocchia di San Michele e Santa Rita, no? E recentemente, ma per un dettaglio, ho raccontato a mia madre che ho cominciato ad andare alla piscina di Via Mincio, no? E lei dice: come Via Mincio, il luogo della mia infanzia? E ho scoperto che lei abitava in una casa che apparteneva a un'altra parrocchia, no? Alla parrocchia di San Luigi, no? Quindi dalle parti di Via Mincio, pur abitando in Corso Lodi 122. Per cui a un certo punto la curia di Milano ha ridistribuito i confini e ha deciso che Corso Lodi 122 passasse ad appartenere alla parrocchia di San Michele Santa. Quindi io sono grato alla curia di Milano, senza la quale non esisterei, no? Per questa decisione amministrativa, perché di fatto si sono conosciuti nell'oratorio del, no? Conosciuti come se ci si conosceva allora, a distanza, cioè l'oratorio femminile, l'oratorio maschile, facevano teatro, ma le parti femminili le facevano i ragazzi, perché era tutto diviso, no? E così, infatti, mio padre ha scritto una letterina che conserviamo ancora, no? Gentile signorina, dandole del lei, no? E dandole il suo telefono della banca, e così, e mia madre ha risposto, fortunatamente ha risposto. Si sono incontrati fuori dalla banca lì in centro, hanno fatto un giro dell'isolato, e così è cominciata la storia, no? E lui l'aveva adocchiata, devo dire che ha avuto un buon occhio, mio padre. No, perché adesso ho raccontato queste cose familiari, ma quante cose accadono, Noi crediamo nella provvidenza del Signore, ma quante cose accadono che sfuggono totalmente al nostro controllo, alla nostra, totalmente. Per cui quando pensiamo di voler controllare tutto, proprio ci sbagliamo del tutto, no? Noi possiamo controllare una parte minimale di cose, no? Forse così come, non so, il menù, come funziona il forno, cioè questo è importante, controllarlo bene, no? Spegnerlo, accenderlo. E certo, pensate anche all'educazione dei figli, il rapporto coniugale, arriviamo anche lì, anche nei rapporti affettivi fondamentali, solo a poche cose, no? Ad una percentuale minima, poi c'è tutta la libertà delle persone e c'è tutta l'azione di Dio che noi crediamo che con la sua provvidenza trasforma anche, quindi io ho raccontato fatti normali della vita, ma anche il male, per esempio queste emigrazioni forzate, le può trasformare per il bene, fa nascere, insieme a tanti danni, tanti guai, tanti peccati, fa nascere molta santità, Gesù le disse Maria, ecco Gesù che ci chiama per nome e ci aiuta a ritrovarci e a dire: sono io, chi sono? No? Qualche volta abbiamo bisogno di ricordarci chi sono, da dove vengo, dove vado e a cosa serve la mia vita. Serve a dare gloria a Dio, serve a appunto alla gloria di Dio, a fare del bene intorno a noi. Il Signore ci contempla ed è contento. contempla la nostra vita non solo quando ci ha creati, come Adamo ed Eva, no? Il settimo giorno riposò, ma contempla la nostra storia. La nostra storia che, pur essendo così determinata da tanti fattori contingenti, però è libera per una certa misura. Cioè noi la possiamo anche cambiare, non è predeterminata, no? La nostra fede cristiana crede nella libertà della nostra possibilità di autodeterminarci e anche di trasformare il mondo. E la nostra storia, noi crediamo in una storia che ha un processo lineare, ma non è tutta predefinita, anche se misteriosamente il Signore conosce il futuro, ma è un futuro da parte nostra libero e aiutato dalla sua grazia, sostenuto dalla sua grazia, no? Lui ci ispira, ci consiglia, ci sostiene, fa il tifo per noi, stravede per noi, è innamorato di noi. È innamorato di noi. È un innamoramento che non finisce mai, pazzo, no? Che lo porta addirittura a dare la sua vita per noi, cioè a morire sulla croce, a perdere tutto il suo sangue. Ella si voltò e gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro, è come dire tu sei il mio punto di riferimento, tu, ecco, ti ho ritrovato. Gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Qui c'è un piccolo salto, io penso che Maria si sia lanciata verso Gesù, perché sennò non si spiega, cioè non mi trattenere. Quindi d'altra parte non so come si usava allora, però le abitudini del saluto, però evidentemente lei pensava che fosse morto, se lo ritrova vivo la cosa più normale è che si sia lanciata verso di lui con un abbraccio molto forte, penso io. Dopodiché Gesù gli dice questa misteriosa parola in un certo senso, no? Non mi trattenere perché non sono a casa salito al Padre. Allora, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ora, questa, come tutte le cose del Vangelo, della Bibbia, in pochissimi casi la Chiesa ha detto questo è il senso vero di queste parole, no? È bellissimo anche che la Chiesa ci lasci liberi di interpretare, non solo, poi dopo se le cose vanno sulle questioni di tipo dottrinale evidentemente dobbiamo essere coerenti con la fede nel dire le cose, no? Non siamo come alcune visioni del tipo protestante che dà la libera interpretazione della scrittura una libertà totale, no? Noi abbiamo la fede insegnata dalla Chiesa, però nell'ambito di questa tantissime sono le possibilità interpretative, per cui perché dice Gesù questo? E poi ci sono anche interpretazioni che crescono lungo la storia della Chiesa. Nel leggere la Sacra Scrittura anche cresce la comprensione lungo la storia della Chiesa, lo Spirito Santo anche ispira i santi, il Magistero, eccetera. Allora io non so, qualcuno, io ho trovato una volta in un commento a questo Vangelo, un commento un po', se volete, un po' banale, che dice Gesù gli dice non mi trattenere tanto ci vediamo ancora nei prossimi giorni. Comunque l'ho trovato scritto, quindi cioè sto qui 40 giorni, quindi adesso devo andare, ci sono i due di Emmaus che stanno scappando. E comunque qualcuno l'ha pure scritto e pubblicato, quindi anche se vi fa sorridere. E poi ci possono essere altre interpretazioni, per esempio quello è un'interpretazione così che pensa che Gesù aiuta Maria Maddalena a dire non mi tenere solo per te, non mi tenere solo per te, non essere esclusiva, no? E questo è l'amore per Gesù, è così, è totale ma non esclusivo, cioè ciascuno di voi può amare Gesù e sentirsi amata da lui in modo assoluto, totale, con un amore infinito, che però è anche per tutti gli altri, questo amore personale, così, no? E allo stesso tempo Gesù che gli dice: ecco, adesso questo amore grande che c'è tra noi due deve aprirsi agli altri, no? Anzi, tu portalo agli altri, questo amore che c'è tra noi due. Portalo dai miei fratelli. Quindi la rende, come viene nominata Maria Maddalena nella tradizione, apostolo degli apostoli. Cioè è lei che insegna, che dice agli apostoli: guardate che Gesù è risorto. E allo stesso tempo, ecco, teniamo presente che questi due amori, l'amore di Dio e l'amore dei fratelli, sono sempre presenti in Gesù, nel Nuovo Testamento, nella Scrittura, non sono mai separati. Non ci può essere un amore di Dio che non si riversi nell'amore dei fratelli. Non ci può essere. È un errore. Se volete, poi, insomma, se non l'avete letto, o rileggerla, l'enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, bellissima, profondissima, in cui addirittura poi c'è tutto un discorso sul recupero cristiano dell'eros, che deve essere unito all'agape. E d'altra parte l'eros è pure un amore creato da Dio, no? E comunque non vi rimando a quello scritto, no? E che parla anche dell'esodo, no? Non solo l'estasi dell'eros, ma l'esodo, cioè uscire da noi stessi per andare verso i fratelli, per il bene loro. Allora, e anche in quell'enciclica mi ricordo che il Papa ribadisce questo fatto, che non ci può essere un amore di Dio sganciato dall'amore per i fratelli, no? O, no? Qualche volta a noi può capitare, quando, siccome tutti quanti soffriamo pene d'amore, nel senso che se non ci sentiamo sufficientemente corrisposti nel nostro amore, quello degli sposi, quello dei genitori, quello dei fratelli, no? Quello anche che si esercita nell'apostolato, no? E allora per un tentativo di purezza un po' disincarnata, che non è cristiana, pensiamo: dovrebbe bastarmi l'amore di Dio, no? Ma non è vero, non vuole Dio bastare, non vuole essere l'unico, non vuole essere solo. Infatti sempre rilancia all'amore fraterno, sempre. Vi sfido a cercare nella Bibbia o nel Nuovo Testamento un brano in cui il Signore dice: amate solo me, lasciate perdere i fratelli. Mai. Infatti anche Gesù, anche nell'Antico Testamento, i due comandamenti sono sempre uniti. Senz'altro è più importante l'amore di Dio, però poi subito dopo c'è l'amore per il prossimo. In questi due comandamenti, dice Gesù, si condensa tutta la legge. Non sono mai sganciati, no? E quindi adesso rispondo subito all'obiezione che qualcuno di voi fa, che qualcuno dice: ma Santa Teresa, il canto che dice solo Dio basta, come lo mettiamo insieme a queste cose qua? Intanto Santa Teresa non è il Nuovo Testamento, comunque non è quella l'obiezione. No, ma sono assolutamente certo che Santa Teresa è d'accordo con me, perché è d'accordo con Gesù. E quindi diverso è che in un momento di difficoltà, in un momento di prova, in un momento in cui ci vengono tolti gli affetti terreni, perché può succedere, no? In un momento di prova, di isolamento, di solitudine, allora uno in quel momento dice: mi basta l'amore di Dio, ma non è un comandamento, ecco, no? Cioè è una consolazione, cioè è la certezza che comunque il Signore non ci lascia mai soli, no? E quindi Santa Teresa diceva: se anche crolla tutto, però il Signore c'è sempre, no? E E in effetti poi Maria va nel cenacolo e non so se le hanno dato retta, secondo alcuni evangelisti non gli hanno dato retta, non hanno creduto, e poi questo è soprattutto San Marco, no? Che si vede che riflette la predicazione di Pietro, che non aveva pietà con se stesso, cioè tutto il male che può dire di sé lo dice San Marco, lo riporta. Quindi dice, non avevano creduto e Gesù li rimprovera. Però dopo averli rimproverati gli dà il comandamento di andare dappertutto, di essere le sue colonne nella chiesa, no? Quindi è molto consolante questo. In ogni caso lei va lì e poi cosa succede? Che è come se Gesù gli avesse detto, tu vai dai miei fratelli e lì mi trovi. Cioè adesso lascia il tuo rapporto con la mia, di tipo come dire, fisico, visivo e tattile, con la mia umanità risorta, perché senz'altro fra qualche giorno non ce l'avrei più, quindi, ma vai dai miei fratelli e io sono lì presente. Sono lì presente. Pensate che noi diciamo, cioè siamo abituati nella dottrina che conosciamo a dire che Gesù è presente, la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, no? E poi diciamo che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Bene, nel Medioevo, come spiega il famoso teologo De Lubac, queste due espressioni sono scambiate, cioè la presenza reale di Cristo è nella Chiesa, tra di noi. E l'Eucaristia è il corpo mistico. Quindi Gesù dice, vai dai miei fratelli perché io sono lì. Io sono lì tra i miei fratelli. E infatti, alla sera, entra a porte chiuse e quindi, cioè, a un certo punto compare, no? Ma era già lì. Solo che si fa vedere. Allora, Maria scopre, ah, avevi ragione Gesù, tu sei qui, in questi miei fratelli, e qui ti devo trovare. Poi lo troviamo nell'Eucaristia, lo troviamo nella preghiera, però lo troviamo nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, presente in loro. No? Mi viene in mente che questa era solo la premessa del nucleo. Meno male che c'è un'altra meditazione dopo, però non vi posso, adesso interrompiamo, la meditazione non si conclude ma si interrompe, come le tesi di laurea. Va bene, allora noi ci siamo sempre in presenza di Maria, la quale ci sorride e ci aiuta a continuare nel nostro ritiro, nella nostra meditazione.